Itabella. Vieni, vieni, vieni via di qui. Çizmeden çıkan her türlü tanım. Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Hazırlayan ve sunan Cansın Saysa. Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. 5.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella bugün ilk defa canlı yayınla 17. İstanbul Bienali kapsamında Barınhan'dan konuk oluyor size. O yüzden ben de biraz heyecanlıyım. Bu program aynı zamanda İtabella'nın ikinci yaş günü. O yüzden geçen yılki gibi bu senede bir önceki seneki programlardan minik bir seçki yaparak neler dinlemişiz hem hatırlamak hem de hatırlatmak istedim. Geçen senede bahsettiğim gibi İtabella ilk yapılacağı ortaya çıktığında buna en sevinen, en heyecanla bekleyen kişi benim babamdı. Ve maalesef o dönem hastalandığı için hiçbir programı dinleyemeden aramızdan ayrıldı. O yüzden bu program, bütün bu şarkılar bu sefer yine geçen seneki gibi ona ithafen, ona da bir seneyi devriye olacak. Geçen seneki ilk programımız 25 Kasım'da kadına karşı şiddete ithafen yapılmış şarkılardı. O programdan 2008 yılında ülkemizde katledilen sanatçı ve aktivist Pipa Bakka'ya yazılmış bir parçayla başlıyoruz. Radyo Derviş'ten Gelinin Duvağı, Velo Disposa, şimdi radyonuzda. Del suo consueto dire, io non mi scorderò, restano le parole. E vuoti da narrare, orienti immaginari, perduti nei capelli di principi crudeli, dagli occhi troppo belli. Fotografie tagliate in forma di stupore, son cibo prelibato per angeli viaggianti, vittime destinate da chi non sa capire che ha ricevuto rose e le lascia morire. Ora di te mi parlerà la Via Lattea, velo di sposa, la notte biancherà. Ora di te mi parlerà la Via Lattea, velo di sposa, la notte biancherà. Portami da Milano fino a Gerusalemme, per la luna di miele, di api colorate che posano sui fiori cresciuti nella guerra, un polline impazzito che illumina la terra. Ora di te mi parlerà la Via Lattea, velo di sposa, la notte biancherà. Ora di te mi parlerà la Via Lattea, velo di sposa, la notte biancherà. La notte biancherà, ora di Radyo Derviş'ten Vero di Spoza'yı dinledik. Arkasından 50'ler İtalyan müzisyenlerinden parçalara yer verdiğimiz bir program vardı. O programdan da 50'ler deyince aklımıza gelen şapkası, viskisi ve gangster kıyafetiyle Fred Buscaglione dinliyoruz şimdi. Teresa non sparare, şimdi Itabella'da. L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa, tu. Follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Vizia! Perciò, Tere, ti prego, non scherzare col fucile, far così, non è gentile ma lascia andare. Teresa, no! Non mi sparare, Teresa, lascia perdere! Ah, no! Teresa, mio, ti prego, non sparare! Fred Buscaglione'den dinledik Teresa, non sparare. 2021 yılına Noel şarkılarıyla veda etmiştik, bir kuple umut olsun diye. Şimdi bir Napoli Noel şarkısı olan La Santa Allegrazza'yı Napoli Canta'dan dinliyoruz. Cantamma la santa allegrezza, Maria bellezza, maggiore città, sei incarnato lo verbo di Dio, lasciando a Maria la verginità. Cosa importante, lo padre, lo figlio e lo spirito santo. Cosa importante, lo padre, lo figlio e lo spirito santo. Quando tu gravato fosse regina, lo cielo e stelle facesse stupire. Quando non disse Giuseppe devote, cercavano un luogo per farti turire. Cosa ci prega, Giuseppe e Maria ci cercano la fede. Cosa ci prega, Giuseppe e Maria ci cercano la fede. E San Giuseppe, patriarca suprema, per dar loro piena ne apre la mano. E si intera la mano di Dio, lo cielo sereno per lieta una via. Dove riposa, è la bellezza di tutte le cose. Dove riposa, è la bellezza di tutte le cose. Viaggio la coppia si mise, un angelo sceso dal gran paradiso, va accompagnarci alla massa va passa e per difendere la tazza da nasso. Verbo di Dio, quando in viaggio si mise Maria. Verbo di Dio, quando in viaggio si mise Maria. ma gran pericolo deve passare. La Vergine è bella del cielo e del mare, e se un serpente il piede l'arresta, la Verginella ci schiaccia la testa. Lucia la strada, lucia la strada, tu luce stella Maria Murata. Lucia la strada, lucia la strada, tu luce stella Maria Murata. Passare, si aprono pure le onde del mare, cantano tutte le acque del mondo per questa Vergine bella e gioconda. Luce divina, quando Maria sopra l'acqua cammina. Luce divina, quando Maria sopra l'acqua cammina. E San Giuseppe dal giglio d'argento va con la sposa nel prete e nel vento, e quando il vento si sente più forte, pur San Giuseppe a tutte le porte, fa la dimanda, mangia punta da che salutanda, fa la dimanda, mangia punta da che salutanda. Soffre Maria e la mano ci tremma, quando arrivano a Betlemma, perché sta coppia che il freddo la ghiaccia, tutte le chiure non la porta a faccia. Piezza la via, piezza la via, nasce il mistero del verbo di Dio. Piezza la via, nasce il mistero del verbo di Dio. Mezzo al cielo Maria tutta pura, e sotto i piedi ci spunta la luna. Vergine bella cantaste e veniste, per ieri trovarne la croce di Cristo. Per redenzione dell'umana generazione. Per redenzione dell'umana generazione. Napoli Canta'dan dinledik La Santa Allegrezza. 2022 yılının ilk programı İtalya'nın en karanlık dönemi olan faşist İtalya'nın propaganda şarkılarındandı. Biz o dönemden değil, o dönemin sonundan bir parçayla devam ediyoruz. Fausto Amedeo'dan Dongo'yu dinliyoruz. Fuduce i giornali han narrato la sua ultima disavventura, che seguì alla fatal sua cattura e il destin che su lui si compì. Come fu Mussolini arrestato, custodito fu insieme a Claretta, messo in una colonna stanzetta dove stette all'incirca due dì. Buia e tetra era quella stanzetta, ben guardata da due partigiani, che la sorte avean nelle mani di chi fu la cagion d'ogni mal. Lui fu messo insieme a Claretta per goder tutto quel che doveva, per goder tutto quel che voleva dell'Italia il fratel suo carnal. Nella stanza entrò il giustiziere, Mussolini vicino era al letto, fuor dall'orbita gli occhi e nel petto un tremendo mortale terror. Il tiranno portava un berretto della fu guardia repubblichina e un cappotto color nocciolina, era un uomo finito di già. Mussolini ascese al potere con la forza in quel di già lontano, ma la forza di ogni italiano annientò quel crudele oppressor. Nel vedere il patriota gli ha detto: cosa c'è che venite qui a fare? Ambedue vogliam liberare, sì, davver questa è la libertà. Mussolini da buon cavaliere, or quel luogo lui sta per lasciare. Precedenza la donna vuol dare, ma precederlo lei non lo vuol. detto ciò il giustiziere decise di colpire il tiranno e Claretta. Sui tiranni al fin la vendetta sarà sempre tremenda qua giù. Sui tiranni al fin la vendetta sarà sempre tremenda qua giù. Fausto Amedeo'dan dinledik, Donga Radyonuz'daydı. Ocak ayının sonlarındaki programımızda Hrant Dink'i anarken ayrımcılığa karşı duran İtalyanca şarkılar dinlemiştik. O programdan kalabalıklığımıza ithafen yazılmış bir Carmen Consoli parçası olan A Finestra'ya kulak veriyoruz şimdi. La finestra è vero, gente che vorrei passata, gente bella l'aria allegra, motriosa e sediata, gente riputtuta con la cicchia esata, bocca scetta, tu ho voglia di qualcosa, un bassa bocca, un lemon soda, e tu già rispondi Giuse quando ti chiamavi Giuseppina, eri le capabrio sciacca granita. Tu una fattusciata e ora che sei grosso imprenditore t'anzignara grazie in do parlare. Sogno sembra alla finestra, è vero, gente spacinata, sto agata nei banchini della piazza, sto terzo ma sigaretta, gente casa incontra e dice ciao con Nataleata, gente casa all'asca, gente casa abbraccia e poi si vasa, gente casa parte in genna cigna, si sciapazza e non si pinna, non gasta altro inverno, non si canta missa, gente casa fa le canna sarda, ma ci fa giuare a tavola con sada cucumana. Chi c'ha vidi di dare a una vita a cui pensare a me un poco di che fare e da venne a travagliare con mia vecchia indispettita avevo mi giarrero di gioio ci dico ma scusari chi sta la mia casa e stai o ne me pare. La domenica mattina dai a to parlanti della chiesa, voci pace coppola, nantronica se trase dentro l'ossa, peccatori rinunciati e ripiccati della carne, quando diavolo s'appaccia rafforzate via mutanna, quando attacchio della chiesa si posteggia un macchinone, scende Sario, branchia detto tra leone. Pace coppola, balbette e mocchia l'omelia con tre parole, perché sua maestà sa fare la comunione. Chi c'ha vidi di dare a una vita a cui pensare a me non poco di che fare, da venire un poco a mare, con mio vecchio dito così anche mi pare di scritto io. Casa panzuttare sogno sembra alla finestra è vero aranni civiltà casta donne turche pre cristiani si stringevano la mano tanno si pensava che la diversità e ricchezza tempi di pittizza di poesia di amori e di saggezza ciò qua stato a ieri oggi forse che potessi ritornare so trovamo semi buono di che andare da sta terra fuoco e mare oggi sento che mi parlo cuore dice che le cose stanno per cangiare chi c'ha vedi di tagliare una vita a cui pensare a me non poco di che fare e da venire a ballare e dare quattro saute e mi scede giusto per sbagliare io ci dico con piacere c'è qualche danza scelta cavoli di consigliare. La la la Carmen Consoli'den dinledik. A Finestra Radyonuz'daydı. Daha sonra Amerikalı İtalyanları dinlediğimiz bir program yapmıştık. O programdan da Louis Prima şimdi bizlerle olacak. Prima'nın bu parçası annesinin adını taşıyor. Angelina şimdi radyonuzda. I eat aunt the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Evo you bene, evo you bene. Angelina, I live for you. E un passione, basta falsoni. You have set my heart on fire. But Angelina, signorina, never listens to my song. I eat Aunt Pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. If she'll be my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mia madre. Figlia mia, cutterara, mamma mia, pensaccia tu. Si ti doni alla musicante, i ti vai, i ti vieni, sembra lo strumento una mano d'ena. Si ci mi chiavano, si, lo strumento, figlia mia. Oh mamma, zoom, zoom, baccola. Oh mamma, zoom, zoom, baccola. Oh mamma, zoom, zoom, baccola. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, baccola. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, ben merda. Figli mia, cutterara, mamma mia, ben faccio tu. Zitti non gli abbisci a olo, e ti va, e ti viene sempre baccola la maradena. Zitti ci picchia a fantasia, baccola la maradena. Oh, oh, oh, oh, mamma. Prima'dan dinledik, Angelina radyonuzdaydı. 14 Şubat'ta solisti Enrique'nin vefatının yıl dönümü vesilesiyle Bando Bardo için bir program yapmıştık. Ve Bando Bardo'nun Çalışmıyorum, Bugün Çıplak Kalıp Manifesto Yapıyorum dediği parçası Manifesto, şimdi Itabella'da. Müzik

dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba e no, chiamati così, chissà come si farà. Adriana Celentano'dan dinledik Il Ragazzo della Via Gluck. Açık Radyo Destek Haftası'nda anne karnından beri Açık Radyo destekçisi olan iki küçük hanımla birlikte bir program yapmıştık. Canan ve Sera'yla, ki onlar benim kızlarım. O programdan Enzo Iannacci'den Il Cane con i Capellini dinliyoruz şimdi. Quando andava per la strada si molleggiava, se passava davanti a una vetrina si rimirava, si pettinava i suoi capelli che erano fitti e belli. Disperazione dei suoi fratelli, non si è mai visto un cane con i capelli. Voleva sembrare un altro e si illudeva d'essere diverso, perché per strada la gente lo guardava, lo accarezzava, gli accarezzava i suoi capelli che erano fitti e belli. Disperazione dei suoi fratelli, non si è mai visto un cane con i capelli. Non si è mai visto un cane con i capelli. Ormai convinto d'essere diverso, il cane coi capelli entrò bel bello in una tabaccheria. Tre sigarette, mi dia tre sigarette. Nessuno rispondeva, no, non gli dava retta, anche se aveva dei bei capelli, non si dà retta, non si è mai visto cane con i capelli. Non si dà retta, non si è mai visto un cane con i capelli. Enzo Iannacci'den dinledik Il Cane con i Capelli. 25 Nisan ve 1 Mayıs'ı birlikte kutladığımız parçaların programında direniş deyince akla gelen ilk isimlerden olan Giovanna Daffini parçaları dinlemiştik. Şimdi onlardan biri olan bir Nisan bayramını kutlayan Festa d'Aprile, şimdi Itabella'da. Tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi, hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, ripugna la battaglia per conquistar la pace, per liberare l'Italia. Giovanna Daffini'den dinledik. Festa d'Aprile radyonuzdaydı. Haziran ayında Onur Ayı vesilesiyle gökkuşağından çıkan Onur şarkıları dinlemiştik. Şimdi o programdan 1968 yılından bir Igufi parçası dinliyoruz. Bir trans bireyin annesinin ağzından dinlediğimiz La Mamma del Giglio şimdi radyonuzda. Mamma doveva passare impiegato de rolo, sor commissà un giglio, de rolo al banco lì giù dei numeri all'otto, sor commissà non ce posso pensare. Un vizio detto che era un vizio, non ce l'aveva. Ma che ve posso di manco l'amici, niente. Faceva sempre su e giù casa e ufficio, sor commissà un giglio. Non lo sentivo mai di una parola cattiva, sor commissà, non ce posso pensare. Ma era tanto buono che mo chiamaveno Violetta, quando il suo nome pensi che era Peppino. Dopo sei giorni passati a scrivere i numeri, sor commissà, un giglio, se divertiva indossa qualche volta una gonna, sor commissà, me l'aveva da vedere. E così ha fatto passi maci ieri sera, e al parco me l'ha acciso un maniaco sessuale. Proprio mo che doveva passare impiegato de rolo al banco lì giù dei numeri all'otto. Igufi'den dinledik, La Mamma del Giglio radyonuzdaydı. Yaz tabellalarında Napoli Festivali ve Puglia şarkıları çaldığımız programlar vardı. Onlara vaktimiz yetmeyecek ama hepsine birden selam yollayan bir Tarantella programının kapanış parçasıyla yavaş yavaş bitiriyoruz tabellayı. Bugünkü program destekçimiz olan minik destekçimize Karan Altun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben Cansın Sayesen, Tarantella Napoletana'yı Sandro Cuturello yönetimindeki İtalyan Napoliten Orkestrası'ndan dinleyerek kapatıyoruz. Hoşçakalın. Thank you. Itabella. Via, via, vieni via di qui. Çizmeden çıkan her türlü tanım. Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Hazırlayan ve sunan Johnson Saizer. Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Karan Altunbey'e teşekkür ederiz.